Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Buongiorno, è domenica 2 febbraio, benvenuti alla 149esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione che cerca di documentare e di suggerire modi per pensare e vivere una vita cruelty free. Al microfono eccezionalmente c'è Lorenzo Guadagnucci, ma questa trasmissione, questa puntata, è possibile grazie alla collaborazione di numerose persone, e quindi Camilla Lattanzi, Francesca De Matteis, Roberta Marino, Valentina Reggioli, Gabriele Palloni, oltre a Francesco Azzurri con il suo lavoro tecnico e a Giona Vinti e Lorenzo Ranfagni per la parte musicale. Per questa settimana l'incontro con gli animali riguarderà i cebi, cappuccini ospiti del Parco dell'Abatino. Sarà ancora il professor Antonio De Marco a farci da cicerone per conoscere questi individui scampati a sorte infame, oggi ospiti del parco in provincia di Rieti. Per l'attualità con Animal House parleremo di circhi. Roberta Marino è stata a Como, a un presidio davanti a un circo attendato in quella città. Sarà anche l'occasione per fare il punto sulla normativa riguardante i circhi, una normativa in evoluzione anche per quanto riguarda l'assegnazione di fondi. In vista c'è una trasformazione dei circhi in spettacoli senza lo sfruttamento di animali. Per la rubrica Perla gli umani, Marco Reggio ci illustrerà il contenuto del nuovo numero della rivista Liberazioni, uno dei punti di riferimento del movimento antispecista. Avremo questa settimana una rassegna stampa che toccherà tre argomenti: la questione dei lupi in Maremma e della strage che continua, la mattanza dei delfini in Giappone e le proteste che l'accompagnano, e infine le pagine dedicate da un quotidiano agli animali da compagnia e a tutti gli aspetti scientifici, etologici, ecologici attinenti. Con il professor Luigi Lombardi Vallauri, il nostro filosofo di riferimento, affronteremo stavolta un caso di attualità dei giorni scorsi: l'uccisione in diretta televisiva da parte di un cuoco di un capitone, un episodio raccapricciante che la dice lunga anche sul senso dello sceno e la sua intermittenza. Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco. Questi sono? I cebi cappuccini, quello là, vediamo. Allora, storia dei cebi cappuccini, questi vengono dalla Francia. Ecco, vediamo, questo per esempio gli manca un braccio, questo è il motivo per cui poi è arrivato qui. Cioè, nel senso che ha avuto una disavventura, mi hanno detto, quando era giovane, si è trovato in mezzo a... è stato aggredito da adulti e gli hanno dovuto amputare un braccio, e quindi, insomma, comunque, diciamo che per quanto riguarda tutte le attività, i suoi comportamenti, sono rimasti, è riuscito a trovare una forma di bilanciamento, in un certo senso. E così come la femmina, poi questo lo vediamo, sì. La femmina che, a cui mancano invece alcune dita dalla mano, anche lì mi hanno detto che è capitato che è rimasto fuori dalla struttura in cui era mantenuto, sempre in Francia, in una notte molto fredda, per cui si è dovuti poi intervenire e amputare alcune dita della mano. Quindi, proprio congelato. Sì, quindi sono arrivati questi in tempi diversi, questi due individui, e all'inizio c'erano delle difficoltà anche di comunicazione tra di loro, cioè non è che abbiano subito interagito in maniera positiva. Poi col tempo si sono un po' adattati, è nato un piccolo e questo è servito moltissimo all'unione del gruppo, per cui insomma direi che c'è stata una svolta positiva. Il piccoletto è questo qui che vediamo. Sono cappuccini, chiamati cappuccini perché hanno questa colorazione un bianca po' intorno alla faccia. Sì. Quello che vediamo su invece è un cercopiteco grigio-verde, anche quello è un piccolo, anche lì stesso discorso, un maschio e una femmina sono arrivati qui perché espulsi dai loro gruppi, uno di questi mi pare che sia arrivato, se non sbaglio, dall'Ungheria, da uno zoo ungherese che c'erano tramite un'associazione europea, ci aveva detto se lo potevamo prendere perché era stato espulso e quindi non si poteva tenere più nel gruppo. La femmina invece arriva da una struttura italiana, anche qui si sono riprodotti, è nato un piccolo e questo ha rappresentato una forte coesione nel gruppo. Cioè i piccoli molte volte hanno questa funzione molto importante di riuscire, soprattutto quando si tratta di mettere insieme animali primati, soggetti che comunque provengono da realtà diverse e che hanno difficoltà poi a interagire, a socializzare, invece il piccolo insomma svolge un ruolo molto importante. Interviste, attualità. Al circo gli animali non si divertono, recita un vecchio slogan. Eppure in molti sembrano ancora non rendersene conto. Tutte quelle persone che, adducendo le più svariate scuse, acquistano i biglietti per vederli esibirsi in spettacoli umilianti dentro ai tendoni circensi. Nei circhi italiani ci sono ancora 2000 animali prigionieri. La maggior parte di loro, come tigri e leoni, sono nati in cattività, mentre altri sono stati importati, spesso illegalmente. Privati della libertà, vivono in minuscole gabbie anguste, dalle quali escono soltanto per compiere esercizi contrari alla loro natura e che vengono addestrati con metodi violenti, bastoni, percosse, pungoli elettrici o, nella migliore delle ipotesi, con la privazione del cibo. La stagione invernale, la più difficile per questi animali che per natura vivono in climi caldi, è purtroppo anche quella dove fanno maggiormente la loro comparsa i circhi nelle città. A Como, per diverse settimane nel periodo delle festività natalizie e oltre, ha stazionato il tendone del circo Orfei Bellucci, una permanenza che però ha visto anche la costante presenza delle attiviste di Animal Riot, che con volantini e cartelli hanno ricordato quanto il circo sia causa di sofferenza e che esistono anche spettacoli senza gli animali. Ecco cosa hanno raccontato ai microfoni di Restiamo Animali in occasione del loro ultimo presidio, domenica 19 gennaio. È all'incirca un mese che stiamo portando avanti questa protesta, in particolare siamo in pianta stabile fissi davanti al circo per un'ora prima di tutti gli ingressi per tentare di informare le persone e chiedergli di fare una scelta alternativa. Qualche scopo piccolo l'abbiamo raggiunto, qualcuno è tornato indietro, qualcuno ha promesso che l'anno prossimo i bambini non li porterà più e già questo ci rende soddisfatte nonostante la pioggia battente di oggi. La maggior parte delle persone, con la scusa di portare comunque i bambini a vedere gli animali, tendono comunque ad entrare e a non preoccuparsi, insomma, di quello che noi vogliamo dire, vogliamo far capire. Quello che noi vogliamo fare in futuro è convincere il sindaco di Como, per poi allargare ovviamente questa protesta a tutti i sindaci d'Italia, a fare una delibera che dia comunque una serie di limitazioni al circo con animali. Questo è già stato fatto dal sindaco di Alessandria, che è stato il primo che appunto in consiglio comunale ha approvato questa delibera che dà delle forti limitazioni ai circhi con animali. Allora, innanzitutto dà la precedenza ad attendare sul suolo pubblico ai circhi senza animali, a quelli con animali solo per un periodo limitato nel tempo, per un periodo breve che non può essere ripetuto, e può ospitare solo un circo all'anno con gli animali. Questo non è tanto, però è già qualcosa, soprattutto per dare spazio a tutti quegli artisti veramente bravi, di cui noi riconosciamo il merito, che fanno spettacoli senza gli animali, perché gli animali nel circo non sono assolutamente necessari. Gli animali al circo stanno male, soffrono, fanno una vita alle catene di sofferenza, di abusi. Noi vogliamo un circo senza animali, noi diciamo sì al circo, ma un circo che non porti sofferenza a nessuno. Speriamo, dopo questa campagna di protesta, di raccogliere delle firme necessarie a far cambiare idea innanzitutto al sindaco di Como e poi speriamo anche agli altri sindaci d'Italia. Anche quest'anno in Italia più di 3 milioni e 400 mila euro hanno contribuito a mantenere viva una tradizione che costringe gli animali ad una vita di privazioni, lontano dal loro habitat naturale, sottoponendoli a viaggi estenuanti e ad addestramenti innaturali. Parte di questa cifra è stata anche elargita a circhi condannati per reati contro gli animali. Non tutti sanno infatti che la legge sul circo del 1968 riconosce alle imprese circensi una funzione sociale. Il Ministero per i beni e le attività culturali ogni anno elargisce agli spettacoli circensi cifre elevatissime dal Fondo Unico dello Spettacolo, il FUS, uno strumento finanziario per sostenere le attività del cinema e degli spettacoli dal vivo. Forse però siamo a una svolta. Entro 5 anni questi fondi saranno impiegati per la riconversione delle attività e andranno a beneficio degli spettacoli che non proporranno l'esibizione di animali. A settembre, infatti, il Senato ha approvato un emendamento e un ordine del giorno in base ai quali i circhi che utilizzano animali nei propri spettacoli si vedranno azzerati i contributi del FUS. La speranza è che sia un primo passo per arrivare anche in Italia ad approvare proposte di legge per il divieto assoluto di animali negli spettacoli circensi, come è avvenuto già in Grecia, Bolivia, Ecuador e Cipro e in parte in altri paesi del mondo. Roberta Marino, inviata a Como per Restiamo Animali. Perle agli umani, letteratura per la liberazione. Il numero 15 di Liberazione è un numero uscito a dicembre, piuttosto denso, che si apre con, per la parte teorica dell'Officina della Teoria, con un articolo di Matthew Calarco. Matthew Calarco ha scritto questo articolo inedito, che abbiamo pubblicato sul sito in versione inglese e italiana, che si intitola Essere per la carne, antropocentrismo, indistinzione e veganismo. Calarco prende in esame il pensiero, gli spunti del pensiero di Nietzsche, utili per affinare alcuni concetti da lui già introdotti, come quello di indistinzione, e per esprimere la sua visione del veganismo, lo mette in relazione con il pensiero di Val Plumwood, che è una femminista animalista vegetariana scomparsa qualche anno fa, la quale racconta, ripresa qui da Calarco, il suo incontro con un coccodrillo in Australia che ha cercato di divorarla, e fa tutta una serie di considerazioni a partire da questo episodio, sia sulla natura del veganismo che del nostro rapporto con gli animali, con la preda, con la predazione, con la morte, nonché con anche col patriarcato. E Calarco, a partire da questo, delinea tutta una visione diversa, nuova, in qualche modo originale, di veganismo e di antispecismo. Nella parte teorica abbiamo poi un articolo di Antonio Volpe sul pensiero di Heidegger in relazione con degli spunti, degli elementi dell'antispecismo novecentesco e del ventunesimo secolo, e arriviamo alla parte dei territori delle pratiche con Stanescu. L'articolo di Stanescu è un articolo che è comparso qualche mese fa in un numero speciale di una rivista femminista americana molto importante, e che per la prima volta forse mette in relazione il pensiero di Judith Butler, cioè la più importante teorica vivente del movimento e delle teorie queer, lo mette in relazione con alcune questioni relative alla militanza per gli animali, a partire da un concetto fondamentale che è quello del lutto e del diritto al lutto, che Butler negli ultimi anni ha sviscerato per quanto riguarda certe situazioni paradigmatiche, palestinesi a Gaza, la comunità omosessuale e il suo rapporto con l'allarme AIDS in America e così via. In Stanescu questo si declina a partire da questa immagine dell'animalista che al supermercato non ha il diritto, in qualche modo ha una, proprio una impossibilità di piangere gli animali, e la rivendicazione di questo diritto al lutto è anche una rivendicazione in qualche modo di esistenza delle soggettività animali. In questa parte abbiamo un testo di Martinelli poi sul dibattito animalismo-antispecismo, cioè su questa diatriba tra l'uso delle parole all'interno del movimento, un testo di Vincent Desprez, una vecchia conoscenza di Liberazione, che analizza la questione degli xenotrapianti e si chiede, come dice il titolo, si può vivere con il cuore di un maiale, quindi analizza anche il rapporto in un certo senso tra i ricercatori e quella particolare situazione che è quella del prendere degli organi a un animale per metterli su un corpo umano. Completano il numero un testo di Matteo Scozia su Benvenisto, il problema della soggettività visto dal punto di vista delle implicazioni che ha sull'animalità, e un testo di Aldo Sottofattori che analizza il testo di Michela Brambilla, della parlamentare di Forza Italia, che manifesti, propone di essere un manifesto animalista, ma che in realtà è un testo estremamente ambiguo. E conclude il numero 15 di Liberazioni, che è reperibile sul sito www.liberazioni.org. Tigri di carta. Rassegna stampa altro animalista. Oggi cominciamo con una notizia che abbiamo riferito nella puntata di giovedì scorso, e cioè l'uccisione del nono lupo in Maremma, anche questa volta massacrato da ignoti. Questo animale è stato prima fucilato, poi decapitato, e il suo corpo è stato esibito su un cavalcavia lungo la via Aurelia. Una macabra esibizione e anche un messaggio mandato a tutti i cittadini e alle istituzioni. La Repubblica del 29 gennaio scorso, nella sua edizione toscana, riporta in un'intera pagina un'intervista con l'antropologo Maurizio Bettini, realizzata da Maria Cristina Carratù e con il titolo «Il lupo dentro di noi. Quelle carcasse fatte a pezzi, segno di una natura distante». Nell'articolo si dice, fra l'altro, «La storia insegna che fare a pezzi il cadavere del nemico, anche quello animale, è ben più che ucciderlo. Vuol dire negarne l'esistenza alla radice». Opporsi alla natura di cui ogni essere fa parte, lupo cattivo compreso. Non solo stragi miserabili, insomma, ma qualcosa di peggio. Il segno, dice Maurizio Bettini, che la nostra cultura non sa più riconoscere la natura e i suoi rappresentanti più tipici, gli animali, per quello che sono, metterli in relazione con loro e rispettarli come meritano. Bettini, che è docente di antropologia del mondo antico all'Università di Siena e autore di numerosi testi sul rapporto uomo-animali nella storia, fa notare che c'è una corrispondenza fra la crudeltà gratuita di chi fa a pezzi i lupi e l'abnorme umanizzazione cui spesso oggi costringiamo i nostri animali, per esempio infilando cani e gatti dentro assurdi cappottini e calosce o portandoli dallo psicologo o magari, dice Maria Cristina Carratù, allevando pitoni in salotto. È come se non ci fosse alternativa. O riesco a far rientrare un animale dentro il mio recinto oppure lo faccio fuori, lo elimino. In realtà, dice Bettini, il vero equilibrio, e in realtà il vero segno della superiorità, fra virgolette, dell'uomo, passa attraverso il riconoscimento e il rispetto della radicale alterità dell'animale. Le vicende maremmane, allora, per Bettini sono un segno del miserabile impoverimento culturale del nostro mondo, mai così distante dal senso profondo della natura. Il tema della umanizzazione degli animali ritorna in un altro articolo di Repubblica di lunedì 27 gennaio, anzi addirittura tre pagine richiamate in prima. Il titolo è «Nella mente degli animali, non più strumenti ma amici, cambia il rapporto con cani e gatti e vorremmo capire cosa pensano di noi, ma il mistero resta, ecco perché». In questo caso Repubblica si rivolge evidentemente a quegli animali da compagnia verso i quali le attenzioni della nostra società sono massime. Gli articoli che compongono queste tre pagine sono di Anna Lombardi, che intervista, esamina il lavoro di John Bradshaw, etologo inglese, autore di un libro, Cat Sense, cioè senso di gatto, come la scienza può aiutarvi ad essere migliori amici del vostro felino. La recensione di questo libro, dice Lombardi, sul sito di Repubblica ha avuto addirittura 20.000 condivisioni, un vero record. L'altro articolo è di Gabriele Romagnoli, giornalista e scrittore. Bradshaw, in un passaggio di questo articolo, dice così: «Sforzarsi di capire i comportamenti di cane o gatto aiuta ad avere una migliore relazione con loro. E migliorando la loro vita, migliora anche la nostra. Se i gatti finiscono per considerare gli umani come un grande gatto, le prime 6-8 settimane sono fondamentali per creare il feeling. E alla fine il proprietario verrà considerato la stregua di una mamma. L'importante è però non cadere nel fenomeno contrario, cioè non finire per considerare noi, il cane o il gatto, alla stregua di una persona, o peggio, di un bambino. È un po' il fenomeno della umanizzazione che si citava prima parlando del colloquio di Maria Cristina Carratù con il filosofo Maurizio Bettini. E a questo proposito merita citare un passaggio, proprio la parte finale, dell'articolo di Gabriele Romagnoli, titolato «Ma amarli vuol dire accettare il loro mistero». Dice Romagnoli: «Quanto a me, ho condiviso l'esistenza con molti animali e sono fiero di non averne capito nessuno, ma di averli amati tutti proprio per la loro estraneità al manuale di reazioni umane, per l'imprevedibilità che ne faceva dei compagni di viaggio sorprendenti e inaffidabili come il destino. Mi hanno insegnato così che il verbo più importante da coniugare non è comprendere, ma accettare». Le pagine di Repubblica danno anche qualche cifra sulla presenza di cani e gatti e altri animali da compagnia nelle nostre case e dice che il 55% degli italiani ha un animale. Si stima che siano 7,4 milioni di gatti e 6,9 milioni di cani. L'1,1% delle famiglie che hanno animale da compagnia spende più di 300 euro al mese per nutrire il proprio cane, il 52% meno di 30. Cifre comunque molto impressionanti. Per chiudere prendiamo dal Corriere della Sera del 22 gennaio un articolo dedicato alla mattanza dei delfini in Giappone, nella baia di Taiji, resa famosa dal documentario The Cove, vincitore del premio Oscar del 2010, The Cove, la baia della vergogna, nella quale si raccontava anche della meritoria azione degli attivisti di Sea Shepherd. Questa mattanza si è ripetuta, centinaia di delfini sono massacrati in un mare di sangue, letteralmente. Questo articolo dà conto delle proteste di alcuni ambasciatori in Giappone. Il titolo è «Mattanza dei delfini, l'ira dell'ambasciatrice Kennedy». Come ogni anno si ripete la caccia a mammiferi marini, ma ora diventa un caso diplomatico fra Washington e Tokyo. la figlia di JFK accusa via Twitter una caccia disumana. L'attenzione, evidentemente, come è abbastanza tipico dei giornali italiani, si concentra su personaggi pubblici più o meno affascinanti. In questo caso ha attirato l'attenzione l'intervento della figlia di John Fitzgerald Kennedy, peraltro intervento ignorato con grande noncuranza dalle autorità giapponesi. L'articolo comunque inizia così. L'autore è il corrispondente da Pechino, Guido Santevecchi. Hanno messo all'imboccatura della baia un telone incerato per evitare foto e filmati degli animalisti e dei reporter. Poi la mattanza è cominciata. I pescatori giapponesi avevano legato la coda dei delfini selezionati per impedirne la fuga. Poi gli hanno piantato una sbarra di ferro nella spina dorsale e li hanno lasciati dissanguare e soffocare nell'acqua poco profonda fino alla morte. Yoshinobu Nisaka, governatore di Wakayama, ha respinto gli interventi critici sostenendo che la cultura alimentare varia ed è saggio che le diverse civiltà si rispettino a vicenda. Secondo Nisaka, la caccia ai delfini non è vietata da alcun trattato internazionale e la specie non è fra quelle in pericolo di estinzione. Ogni giorno, dice Nisaka, vengono abbattute vacche e maiali per la catena alimentare. Sarebbe crudele solo uccidere i delfini? Non ha senso, ha concluso il governatore, il quale, evidentemente, aggiungiamo noi, si compiace di questa sua visione vile e reazionaria. Sostiene Vallauri. Con il professor Luigi Lombardi Vallauri oggi parliamo di un caso avvenuto nei giorni scorsi. Durante una trasmissione del servizio televisivo pubblico Uno Mattina, il cuoco di turno si è esibito in una pietanza che prevedeva l'utilizzo di un capitone. Questo capitone è stato portato vivo sul bancone, decapitato dal cuoco, fatto a pezzetti e poi i pezzetti che ancora si muovevano gettati in una pentola di olio bollente. Su questo episodio così cruento sono già partite alcune denunce da parte di associazioni animaliste contro il cuoco e anche contro la RAI. Che impressione le fa, professore, questo tipo di azione? Trovo il comportamento del cuoco disgustosamente orrendo e penso che lo si possa affrontare su due piani: il piano del buon gusto etico-estetico e il piano del diritto. Sul piano del buon gusto etico-estetico mi sembra qualcosa di pornografico, come l'esibizione della violenza nei film o alla televisione. Certamente gli animali sono abbastanza tutelati dal diritto perché anche il gusto e il sentimento abbiano un'importanza. Per esempio, la rubrica del titolo 9 bis del libro secondo del codice penale è dei delitti contro il sentimento per gli animali. Quindi il danno per l'animale è oggettivo e indiscutibile. Quello che si può discutere è invece la questione del gusto, io lo trovo di un gusto disgustoso, e la questione del diritto, e qui bisogna andarci un pochino più cauti. Questo fatto che si parli di delitti contro il sentimento per gli animali è stato considerato antropocentrico. Guarda un po', non si tutelano gli animali, si tutelano come al solito il sentimento dell'uomo, come il vecchio ribrezzo del codice Rocco. Ma la migliore penalista che conosco in campo animale, Alessandra Valastro, in un contributo al mio volumone, che ho già citato altre volte, il più grosso volume su animali e diritto della storia del mondo, dice chiaramente, anzi leggo: gli animali sono tutelati penalmente a prescindere dalla loro capacità di suscitare compassione. D'altra parte, il titolo fa riferimento ai delitti contro il sentimento per gli animali. Ma questo, lungi dal potersi liquidare come mera svista, è invece da intendere nel senso della perdurante rilevanza di quel bene e dunque della natura tuttora plurioffensiva dei reati di maltrattamento. Non out-out. O si tutela il sentimento o si tutelano gli animali. ma et si tutelano gli animali e anche il sentimento. Ora, io personalmente sono un cittadino italiano, e ce ne sono milioni come me, fortemente turbati da spettacoli di questo genere, e vorrei che il mio sentimento in qualche modo fosse tutelato, anche giuridicamente, non dico penalmente. La prigione è quasi una tortura, in ogni caso è una condizione di vita che per l'animale e l'uomo è antietologica, e questo avrebbe dei risvolti molto importanti, siccome noi teniamo gli animali negli allevamenti e perfino in casa. Quindi, come fare? Bisognerebbe trovare una risorsa giuridica di tipo non penale, secondo me. E certamente rimane quella risorsa che è la critica, sulla quale io ho scritto una cosa molto carina, secondo me, cioè qual è la sanzione inestetica. Nemmeno Dio ha previsto inferni estetici per i cattivi artisti. Uno può essere artista cattivo e andare in paradiso. Il Rinascimento aveva delle pene spaventose e un'arte eccellente, quindi vuol dire che l'arte se la cavava senza che venisse mandato in prigione l'artista cattivo. Allora, un'ipotesi intelligente sarebbe: cerchiamo di estendere alla offesa del sentimento per gli animali qualcosa di simile alla sanzione per l'offesa al sentimento estetico. Ecco, questo potrebbe forse in qualche modo giuridicizzarsi, e se no non resta che l'appello a una coscienza sempre più sveglia e sempre più vigile. La puntata numero 149 di Restiamo Animali termina qui, ma non prima di ricordarvi l'appuntamento con gli Apericena sulla questione animale. Attenzione, perché l'appuntamento di febbraio è stato anticipato di una settimana, dal 19 al 12 febbraio, sempre alle 20, sempre alla Casa del Popolo di Settignano. Ci occuperemo di sperimentazione animale. Dopo Green Hill e il caso Simonsen, la buona ricerca è senza animali. Saranno ospiti Linda Guerra, attivista in prima linea in questa battaglia, e il professor Luigi Lombardi Vallauri. La cena, come al solito, è ovviamente cruelty free e costa 10 euro. È richiesta la prenotazione anche per evitare sprechi. Prenotazione possibile inviando una mail a restiamoanimali@gmail.com o un sms al numero 347 6717 132. Tutti i riferimenti saranno comunque disponibili sul nostro sito www.restiamoanimali.it. Il 12 febbraio a Settignano. Restiamo animali. Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it.